Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Siamo di nuovo insieme come tutte le mattine alle ore 12 e oggi parliamo di casa. Di casa a Salva Danaio parliamo molto spesso, è uno dei vostri temi preferiti sicuramente. Parliamo di tutto quello che dobbiamo fare per mantenerla, dei sacrifici che facciamo per comprarla, perché oltre ai termini economici che vanno pattuiti nelle compravendite c'è anche una lunga serie di adempimenti da rispettare prima di arrivare a firmare un contratto d'acquisto davanti al notaio. E allora oggi abbiamo voluto proporvi una puntata anche sulla scia delle vostre numerose sollecitazioni su tutto quello che dobbiamo fare per portare a termine serenamente una compravendita, un'operazione che in genere è emotivamente molto forte per le parti interessate, sia per chi vende ma anche per chi acquista, anzi per chi acquista ma anche per chi vende. È bene dunque che in un processo che non è propriamente semplice ci si accerti di farsi assistere da professionisti qualificati che ci facciano concludere il contratto in maniera ovviamente regolare, ma è bene anche che conosciamo quali sono i nostri diritti come compratori e quali sono i nostri doveri come venditori di un immobile. Oltretutto la legislazione sulla casa, lo sapete perché io sono al timone di Salva Danaio da almeno 5 anni e abbiamo seguito tutta l'evoluzione della normativa in questo senso. La legislazione sulla casa è molto ricca e negli anni il nostro ordinamento è intervenuto più volte per disciplinare le questioni legate per esempio alla sicurezza degli impianti, alla certificazione energetica. E allora andiamo tranquilli a rogito, speriamo di farlo questa mattina con l'aiuto dell'avvocato Vincenzo Nasini, legale di Confedilizia. Avvocato Nasini, benvenuto a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche, grazie di essere ritornata a Salva Danaio perché mancava da un po', il notaio Giulia Clarizio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Buongiorno. Buona giornata a tutti, sono veramente contenta di essere di nuovo con Benissimo, voi. Benissimo, anche noi che lei sia con noi questa mattina. E allora soprattutto lo saranno gli ascoltatori che potranno tormentarvi a piacere in maniera ovviamente non negativa, ho utilizzato forse una brutta parola, ma l'accezione è sicuramente positiva perché ci fa molto piacere quando ci sollecitate con i vostri casi concreti, perché così riusciamo ad andare meglio al cuore dei problemi. E allora come sempre potete farlo anche questa mattina chiamandoci all'800 24 0024, scrivendoci al 349 238 6666. C'è però anche l'appuntamento fisso con la borsa tutte le mattine e questa mattina abbiamo una giornata positiva. Ieri è stata negativa invece per i listini internazionali che erano comunque reduci da quello che abbiamo definito il rally di venerdì scorso. Stamattina era ricominciata male la giornata e quindi c'era un po' questo segnale di mantenimento di questa correzione che era iniziata ieri, e invece a metà mattinata il quadro è cambiato. Adesso sono tutte positive le piazze del vecchio continente con un rialzo dello 0,31% a Londra, a Parigi un po' più prudente, più 0,09%, più sostenuto invece quello di Francoforte, più 0,76%, e Milano guadagna lo 0,87% sull'S&P MIB, lo 0,97% sul MIPTEL. Abbiamo ancora una grande attenzione alle trimestrali che stanno uscendo e tanti altri temi un po' stanno condizionando le decisioni di investimento degli operatori. Il petrolio che è ritornato a farci un po' soffrire, $59 al barile in queste ore, il mercato le precontrattazioni appunto americane, peraltro tema che ha già fatto scattare sull'attenti le associazioni dei consumatori, perché come al solito i prezzi ai distributori di benzina si stanno rapidamente adeguando al rialzo e quando il petrolio scende invece il meccanismo inverso è sempre molto molto più rigido, tema che peraltro, lo anticipo già, affronteremo domani mattina alle 8:15 a Soldi e dintorni. I temi di Piazza Affari: Fiat, nella speranza che possano essere giornate conclusive per l'accordo con il governo tedesco per la partita Opel, il titolo è in rimbalzo, ha avuto un paio di giornate di nuovo difficili, più 3,73%, Saipem sulla scia del petrolio, più 3,32%, Telecom più 3,22%, il gruppo delle telecomunicazioni italiano ieri ha smentito di un progetto di fusione con Telefonica, mentre oggi ha fatto sapere di aver dato mandato a due grandi banche di investimento per studiare la vendita di Sparkle, che è la società controllata da Telecom che gestisce la fibra ottica in gran parte d'Europa. Mondadori più 2,68, Prismian più 2,50, Alleanza più 2,48, e con rialzi di oltre 2 punti abbiamo anche Buzzi Unicem, la Popolare di Milano, A2A, Tenaris, Impregilo e Generali. segno meno invece per il Banco Popolare, che perde 3 punti, Intesa San Paolo meno 1,37, Monte dei Paschi meno 0,5, Mediaset meno 0,4%. Rapporto euro-dollaro a 1,36,63. Lasciamo la borsa, andiamo invece al tema di oggi, ci spieghiamo pure, vabbè, ma ogni tanto capita, andiamo tranquilli a Rogito. Per molti di noi, la casa rappresenta l'investimento di una vita, per il quale decidiamo di indebitarci per molti anni e per cifre considerevoli. Ma all'atto d'acquisto, siamo sicuri di sapere proprio tutto di ciò che andiamo a comprare? Un immobile DOC dovrebbe essere corredato di tutta la documentazione atta a garantirci da eventuali brutte sorprese. La prima cosa da fare, naturalmente, è accertare la proprietà dell'immobile. Attenzione, perché se ci sono più proprietari, la promessa di acquisto deve essere firmata da tutti. Per sapere chi è il proprietario, basta richiedere la visura catastale, che ci consente anche di verificare di quanti vani è costituito l'immobile. Se le caratteristiche della casa sono diverse dai disegni delle mappe catastali, bisogna chiedere al venditore i documenti relativi al condono o alle autorizzazioni alle opere interne. Dal 27 marzo 2008, inoltre, i contratti di trasferimento di beni immobili devono adeguarsi alla normativa sulla sicurezza degli impianti. Per gli edifici di nuova costruzione è quindi indispensabile, in caso di compravendita dell'immobile, la dichiarazione di conformità, che deve essere allegata al rogito dal venditore. Bisogna verificare poi che la casa sia in regola con le norme edilizie e urbanistiche, che non vi siano vincoli o previsioni di uso specifico. A questo proposito, è bene ricordare che la legge vieta la commercializzazione dell'immobile costruito abusivamente e mai condonato, per cui il contratto che ne trasferisce la proprietà è nullo. Il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e salubrità è invece il certificato di abitabilità ed è rilasciato dal comune. Infine, non va sottovalutata la situazione condominiale. È bene verificare che il precedente proprietario abbia saldato tutte le spese e che non ci siano residui da pagare e che l'assemblea non abbia deliberato per il futuro lavori eccessivamente costosi. E che comunque, se lo avesse fatto, è bene che il nuovo proprietario appunto sappia delle spese straordinarie a cui andrà incontro. Ma insomma, questo è solo uno dei tanti aspetti informativi che dobbiamo tenere in considerazione quando ci accingiamo a comprare la casa dei nostri sogni. Ci sono tante pratiche da sbrigare, molto spesso può anche capitare di non essere particolarmente attenti, perché ovviamente magari, come dire, l'attenzione prioritaria è focalizzata sulla richiesta, per esempio, del denaro necessario per portare a termine l'operazione. Allora magari gli aspetti anche qualitativi della casa vengono così tenuti in secondo piano, e allora stamattina cerchiamo anche di apprendere bene quello che è necessario fare dal punto di vista della qualità della casa, tutto quello appunto che è necessario fare per andare al rogito, come dicevamo, tranquilli. Allora, notaio Clarizio, io vorrei cominciare subito con lei, ricordando il numero verde per gli ascoltatori, che è l'800 24 00 24, e per la felicità delle nostre centraliniste vedo già che si sono scatenati come al solito. Prima di tutto vorrei ricordare il vostro nuovo lavoro come Consiglio Nazionale del Notariato, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Lo anticipiamo addirittura di una settimana. State predisponendo, è già pronta, noi immagino, la guida? Stiamo per presentare alla stampa e a tutti, lo faremo il 20 del prossimo 20 maggio, terza guida per il cittadino, che sarà la guida al preliminare. Si chiamerà garanzia preliminare la sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare. È il frutto di un tavolo che ormai dura da anni tra il Consiglio Nazionale del Notariato e le associazioni dei consumatori, è il frutto, dicevo, del lavoro con 11 delle associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc, Altro Consumo, Assutenti, Cittadinanza Attiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Fatto bene ricordarli, perché nessuna. No, ci mancherebbe, non si arrabbiano perché sono molto corretti. Però poi, siccome presso ognuno dei siti si troverà la guida, oltre che sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato, magari ognuno di noi ha un'associazione dei consumatori di riferimento e quindi trova lì, presso la sede, appunto, presso i siti, no? Penso che sarà possibile scaricarla prossimamente, notaio. Sì, nel momento in cui la presenteremo sarà anche scaricabile dai vari siti. Il nostro, www.notariato.it, è quello delle 11 associazioni di consumatori che hanno collaborato veramente con tanto spirito di servizio nei confronti del cittadino. Esattamente come erano state peraltro elaborate anche le guide che lei citava precedentemente al mutuo informato. Il mutuo informato che ha avuto anche una seconda edizione, c'è stata l'edizione aggiornata con dopo le misure di Bersani. Legge 40-2007 dalla finanziaria 2008 con tutte le innovazioni Bersani. E poi c'è il prezzo-valore che in fondo mi fa molto piacere constatare che ormai anche la gente, l'altro giorno ero su un tassì e il tassista mi ha detto notaio posso approfittare e poi mi fa sì ma io lo so perché poi dopo si applica il prezzo-valore, questo era stato un modo di chiamare il fatto che nelle compravendite si dichiara il prezzo per intero, si traccia, si dichiarano quali sono gli assegni con cui viene pagato il prezzo, ma le imposte si pagano sulla rendita catastale. Benissimo. Questa è una... E già abbiamo dato una prima indicazione pratica, insomma. Tra l'altro, notaio, allora, quindi in sintesi la nuova guida che presentate è la guida al preliminare d'acquisto. Che cos'è un preliminare d'acquisto? Quando va firmato? Va sempre firmato? Va sempre elaborato, steso prima dell'acquisto della casa dei nostri sogni? In realtà posso anche andare direttamente al definitivo. Facciamo l'esempio che io e lei, che ci conosciamo, abbiamo deciso di trasferire, che io venda e che lei acquisti un immobile, che non abbiamo chiaro tutto e che non abbiamo nessuna motivo per cui vogliamo che ci sia un periodo tra il nostro accordo preliminare e poi il definitivo che venga sanzionato dall'obbligatorietà poi di fare questo secondo atto che sarà l'atto con cui effettivamente noi trasferiamo la proprietà del bene dall'una all'altra. Ma di solito il contratto preliminare si stipula quando si tratta di estraneo o quando ci si è avvalso magari di una figura intermediario, anche perché l'intermediario ha ovviamente diritto alla sua mediazione, il cui diritto nasce dal momento stesso in cui viene sottoscritto il preliminare. Oppure è più facile per esempio che venga sottoscritto quando ovviamente la casa che si vuole comprare è in via di costruzione, per cui i passi sono diversi e sono differenziati rispetto all'acquisto di un edificio già esistente, notaio? Assolutamente sì, anche se lì apriamo tutto un mondo che forse meriterebbe una trasmissione addirittura a parte, infatti anche noi nella garanzia preliminare abbiamo detto che per quanto riguarda il fabbricato in via di costruzione saremmo tornati sull'argomento, perché lì ci sono dei diritti da parte dell'acquirente, degli obblighi da parte del costruttore che sono molto particolari, che riguardano proprio soltanto la vendita dell'immobile in costruzione. Infatti, perché molto spesso tra l'altro si pensa che magari acquistando una casa in via di costruzione i rischi siano inferiori rispetto ad un acquisto di altro tipo, abbiamo scoperto invece negli ultimi anni che ci sono molte società fallite lasciando in braghe di tela anche chi ha appunto comprato e magari versato gran parte del denaro presso appunto società di costruttori e poi si è ritrovato in mano un bel niente, notaio, per cui come giustamente lei sottolineava è un ambito estremamente delicato questo, su quale Salvadanaio peraltro è già andato ad indagare in passato. Assolutamente, cioè la legge che ha cercato di ovviare a queste difficoltà, una legge che mette appunto alcuni diritti a favore dell'acquirente ma che comunque comporta dei vincoli tali a carico del costruttore, per cui noi notai abbiamo effettivamente constatato che sono molto molto pochi i preliminari che vengono fatti poi almeno in modo palese, cioè noi non ne abbiamo fatti se non veramente pochissimi e quindi vuol dire che qualcosa bisognerà ritornarci sopra questa normativa perché allora, incisiva. Infatti peraltro magari poi sarà necessario anche tornarci nel corso di Salvadanaio, perché vedo invece un ascoltatore di Napoli che vuole farci una domanda su questo. Io però Tommaso le vorrei chiedere ancora un paio di minuti di pazienza perché vorrei salutare e dare il benvenuto di nuovo all'avvocato Nasini di Confedilizia, perché altrimenti penserà che l'ho invitato solo per ascoltare noi che chiacchieriamo. Eccoci a noi. Allora, come dire, la premessa della nostra trasmissione si è soffermata anche sul fatto che negli ultimi anni la legislazione sulla casa nel nostro paese è stata molto fiorente. E ricordiamo che il nostro paese è un paese che ha un patrimonio edilizio costituito, mi corregga se cito la percentuale sbagliata, per il 70% da edifici di età superiore ai 50 anni, pertanto negli ultimi anni sono stati interessati questi edifici proprio a revisioni di normative in continuazione, perché sono intervenute le leggi per certificare dal punto di vista energetico le case, le leggi che hanno imposto in qualche maniera la regolamentazione ovviamente degli impianti, delle nostre abitazioni per fare contratti di compravendita all'insegna della totale serenità delle parti, quindi insomma evoluzione continua, quindi molto lavoro anche per voi, avvocato Nasini. Sì, diciamo Diciamo che la Confedilizia ha sempre vigile su questo, su queste continue normative che si vanno sovrapponendo, creando spesso anche confusione, come penso poi emergerà purtroppo anche dalla disamina delle varie problematiche in questa trasmissione, perché molti interventi sono effettivamente giustificati da necessità reali, altri interventi normativi spesso sono finalizzati invece a esigenze di tipo diverso, spesso non meritevoli di altrettanta tutela, imponendo ai proprietari obblighi spesso burocratici, spesso meramente cartacei, che in realtà poi non corrispondono a quelle che sono effettivamente le esigenze di sicurezza. Un esempio, tanto per farci capire, avvocato Masini? Per esempio la stessa normativa, faccio un esempio per tutti, il cosiddetto libretto di fabbricato, no? Fascicolo di fabbricato che ogni tanto viene tirato fuori come un pseudo strumento di sicurezza e di certezza, mentre in realtà si è dimostrato proprio storicamente che in realtà non serve quasi a nulla, se non a nulla, è soltanto una spesa inutile che viene apposta a carico del proprietario, perché se per un immobile nuovo, di nuova costruzione, è necessario, è indispensabile procedere alla redazione di un documento che attesti le caratteristiche costruttive dell'immobile in tutti i suoi dettagli. Per un immobile che è stato costruito 50, 70, 80 anni fa, recuperare, praticamente impossibile, insomma. Certo. E quindi è una spesa inutile, un costo aggiuntivo per il proprietario che è già onerato da costi rilevanti e che si vede ulteriormente addossata a una spesa. Certo, ma se io la volessi fare questa spesa, avvocato Nasini, fossi un proprietario particolarmente pignolo, il fascicolo di... com'è che lo ha definito, mi scusi? Fascicolo di fabbricato, lo potrei fare? A chi mi devo rivolgere? Beh, dovrebbe essere redatto da un tecnico che appunto dovrebbe fare un po' un accertamento di tutte quelle che sono le caratteristiche dell'immobile. Ma di tutto il condominio, per esempio, visto che io abito in un condominio, o del mio appartamento solamente? Beh no, il libretto di fabbricato deve riguardare l'intero edificio. Certo. Perché riguarda proprio le caratteristiche costruttive dell'edificio. Però nei comuni dove era stata approvata la redazione, per esempio il comune di Roma, ci sono state delle sentenze dei giudici amministrativi che hanno cassato questa iniziativa, insomma, quindi è una di quelle ipotesi nelle quali vengono imposti appunto degli interventi che non sono assolutamente utili. In ogni caso, in questo momento, in questa fase legislativa, non è un onere posto a carico del proprietario. Certamente no, non lo è. Tra tutti quelli che dovremmo vedere oggi, certamente per fortuna non rientra questo. È cosa diversa il fascicolo di fabbricato, avvocato Nasini, dal certificato di agibilità dell'abitazione? Poi le spiego perché le ho fatto questa domanda. Sì, sì, certamente. Il certificato di agibilità è un documento che deve essere, diciamo, un documento di origine amministrativa, che deve essere rilasciato dal comune e che naturalmente deve essere dotato ogni edificio che viene costruito nel momento in cui, appunto, prima che venga adibito all'uso per il quale è destinato. Invece qui parlavamo di un qualcosa di buro indotto che viene introdotto surrettiziamente da normative successive alla costruzione del caseggiato. Mi sono di due cose completamente diverse. No, gliel'ho chiesto perché appunto, mentre prima, presentando la trasmissione, ho ricordato che abbiamo deciso di organizzarla, come ci capita spesso di fare, sollecitati anche dagli ascoltatori che ci scrivono all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, c'era proprio un ascoltatore che ci ha scritto: sto impazzendo in un comune del milanese per comprare case, il 70% delle case non ha il certificato di agibilità, mi sembra per una città del nord una cosa incredibile, mi chiedo quali siano gli obblighi anche in questo caso in carico al proprietario o al venditore di avere appunto materialmente questo certificato, avvocato Nasini. Ma dunque, sull'incidenza dell'agibilità sull'alienazione, cioè sulla vendita, e anche, non riguarda il nostro argomento, ma comunque riguarda anche quello, cioè la locazione degli immobili, c'è stato un dibattito giurisprudenziale molto ampio, nel senso che c'erano state delle sentenze della Corte di Cassazione secondo la quale per l'alienabilità deve ritenersi implicitamente richiesto questo requisito dell'immobile, quindi il certificato di abitabilità. Da queste pronunce è stato ritenuto indispensabile alla piena realizzazione della funzione del contratto, però ci sono state altre sentenze anche successive. Nel 2000, per esempio, ci sono state due sentenze della Corte di Cassazione, una di febbraio e una di luglio, che hanno stabilito che la mancata consegna del certificato implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dar luogo necessariamente alla risoluzione del contratto, può però essere fonte di un danno risarcibile, quindi può legittimare in capo all'acquirente l'esperimento di un'eventuale azione per il risarcimento del danno. È una bella questione recente. Ancora del Tribunale di Genova, che ha specificato che l'obbligo al rilascio di un provvedimento amministrativo è un'obbligazione di mezzi, non di risultato, e che quindi, se si dimostra che sono stati effettuati tutti gli incombenti necessari per il rilascio dell'attestazione di agibilità, qui si riferiva ad un box, non si può affermare necessariamente che parte alienante, quindi, cioè il venditore, si sia reso inadempiente. In soldoni, avvocato Nasini, se io fossi un compratore adesso dovrei esigerlo dal mio venditore? Sì, il compratore ha diritto di esigere. Ha diritto di esigerlo, però... Però la mancanza non determina necessariamente l'impossibilità di stipulare l'atto. Si può pattuire uno sconto sul prezzo della casa mancando questa documentazione. Adesso diamo anche questa idea, che non so se è molto corretta, però. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, tra l'altro, visto che di casa stiamo parlando questa mattina, volevo anche ricordarvi che da oggi, e in edicola con il Sole 24 Ore, condominio, la guida per conoscere le regole del condominio e la sua amministrazione, anche qua tema frequentatissimo, a Salva Danaio, e ci sono insomma tutte le cose che vanno conosciute per partecipare all'assemblea di condominio, quindi quali sono i nostri diritti anche in qualità di condomini, quali sono anche i compiti dell'amministratore di condominio, i suoi poteri, i suoi doveri, insomma una guida molto ricca sulla quale magari non mancheremo di tornare anche la prossima settimana a Salva Danaio. Noi oggi invece stiamo cercando di capire quali sono tutte quelle cose che dobbiamo fare prima di andare a rogito, cioè a quell'atto che definisce e sigla ufficialmente la compravendita della casa dei nostri sogni. Stamattina ci stanno aiutando Giulia Clarizio, notaio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato, e l'avvocato Vincenzo Nasini, legale di Confedilizia. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, che apriamo immediatamente. Allora, Tommaso da Napoli è stato il primo ascoltatore stamattina a prenotarsi, quindi lo sentiamo molto volentieri. Tommaso, benvenuto. Buongiorno e complimenti, signor Rossani. Grazie. Allora, io volevo chiedere questo. Sono socio di una società cooperativa a responsabilità limitata e fra un paio di mesi dovrei procedere all'atto di assegnazione. Vorrei capire quali rischi corro nel caso in cui questa società, dopo appunto questa assegnazione, dovesse avere dei problemi, tipo fallimento, non mi sembra che non falliscono, ma comunque l'amministrazione, liquidazione coatta amministrativa, insomma, se corro gli stessi rischi tipo revocatorie fallimentari o cose similari, e per quanto, insomma, per quanto tempo, certo, continua questo rischio dopo l'assegnazione dell'appartamento. Allora, Tommaso, aspetti lì, magari sentiamo se i nostri interlocutori di questa mattina così avessero bisogno di qualche dettaglio in più rispetto alla sua situazione. Notaio Clarizio, sarà sente di cominciare lei con qualche indicazione concreta al nostro ascoltatore partenopeo? Sì, allora, intanto volevo dare una la cooperativa è una situazione un po' particolare e quindi lo volevo più tranquillizzare, ma volevo approfittare anche a dare una indicazione che invece riguarda tante persone e riguarda il fallimento appunto eventuale del costruttore. Stavamo parlando prima ad esempio delle case in corso di costruzione. Se il contratto definitivo o anche solo il contratto preliminare di vendita della casa di abitazione è stato trascritto ed è stato concluso ad un giusto prezzo e il contratto è stato anche, diciamo, ha per oggetto l'abitazione principale dell'acquirente oppure destinata ai parenti, agli affini entro il terzo grado, l'acquirente sarà tutelato e non è suscettibile di fallimento. Questa è una cosa molto importante. Quindi, diciamo, l'evidenziazione, come dicevamo prima, del prezzo, di un giusto prezzo, e il fatto che la casa che viene acquistata è per sé oppure destinata a propri parenti o affini entro il terzo grado, mette al riparo dal fallimento non solo l'acquirente, ma addirittura anche il preliminare, il soggetto che ha soltanto firmato un preliminare. In questo caso però si deve trattare di un preliminare trascritto, quindi fatto per atto notarile, perché si possa, diciamo, sia già inserito dentro i pubblici registri e quindi essere opponibile. Quindi mediamente è un atto preliminare, tra l'altro, per tornare ai termini generali di questa questione, notaio Clarizio, non è una scrittura privata, comunque deve avere una forma davanti ad un notaio, o questo, ha citato il notaio solo per questo? Il preliminare trascritto sì, ovviamente ha bisogno del notaio, però dà questa tutela in più. Adesso, visto che parlavamo, questa riguarda sia la compravendita definitiva sia addirittura il preliminare trascritto, quando l'importanza quindi di un prezzo giusto e che l'immobile sia ovviamente stato acquistato non per investimento, ma sia stato acquistato per abitazione propria o dei propri cari. In questo caso abbiamo una tutela maggiore, e questa è una cosa che purtroppo molti ignorano, mentre invece è molto molto importante, perché tutela moltissimo. Invece negli altri casi, se noi invece siamo in una situazione diversa, la compravendita può essere revocata, a meno che quindi rientra nel soggetto al revocatorio, a meno che non si possa dimostrare che effettivamente non si era a conoscenza dell'insolvenza del venditore, il prezzo deve essere giusto, eccetera eccetera, ma comunque insomma rientriamo nell'ambito del fallimento normale. E invece nel caso di Tommaso, che sta ricevendo l'assegnazione del proprio alloggio, in questo caso ha attivato una trattativa con una cooperativa edilizia, i suoi timori sono fondati? Lui può essere tranquillo, ma i suoi timori dovrebbero anche, tra l'altro, lui dovrebbe aver pagato soltanto il costo, non è che ha comprato l'immobile, lui è entrato a far parte della cooperativa in un momento precedente e poi deve aver pagato la ripartizione dei costi sostenuti alla cooperativa senza che la cooperativa avesse un guadagno, quindi siamo in una situazione completamente diversa da quella dell'imprenditore, che giustamente poi ha un reddito d'impresa, quindi è assolutamente più tranquillo. Certo. Allora, Mauro da Milano. Mauro? Sì. Eccoci a lei. Ecco, la mia domanda è questa, è per mio suocero in realtà questa domanda qui. Sì. Mio suocero a settembre dovrà rogitare, ha acquistato una casa e l'acquirente gli ha richiesto, che a sua volta è stato richiesto dal suo notaio, un certificato, un attestato di certificato energetico. Sì. No, allora, però, scusi, non ho capito, suo suocero deve... Mio suocero vende e acquista contestualmente? Sì, esatto, a settembre. Quindi l'acquirente gli ha richiesto per questo vendita, certificato, sì. Esatto, mentre invece lui che dovrà acquistare, l'agenzia non gli ha detto che ci sarà da generare questo documento che il venditore dovrà fare nei suoi confronti. Quindi, siccome questo attestato di certificato energetico non si è ben capito esattamente che cosa esatto, sia. Se è un obbligo o meno, insomma, oppure se, come dire, è una questione facoltativa per la quale le parti in causa si possono mettere d'accordo. Allora, Mauro, aspetti lì e sentiamo l'avvocato Nasini di Confedilizia cosa ci può spiegare rispetto a questo. Sì, dunque, l'obbligo di allegare ai rogiti l'attestato di certificazione energetica era stato previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005, però dal punto di vista della normativa statale questo obbligo è stato praticamente abrogato. La legge di conversione di un successivo decreto legge numero 112/08 ha abrogato questa disposizione e quindi ha abrogato le due norme, i commi 8 e 9 dell'articolo 15 di questo decreto, che sanzionavano di nullità relativa, nel senso che poteva essere fatta valere solo dall'acquirente, un eventuale inadempimento a questo obbligo di allegazione. È successo che in seguito all'avvenuta abrogazione di queste norme, alcune normative regionali che avevano comunque ugualmente previsto e regolamentato questo obbligo di allegazione, addirittura avevano previsto l'applicabilità delle sanzioni che erano previste dalla legge abrogata, e questa normativa regionale ad avviso della Confedilizia deve ritenersi abrogata, perché praticamente sostituita dalla normativa statale sopravvenuta. Quindi, andando nel concreto al caso di Mauro, allora il suo suocero acquista e vende contestualmente. Per la vendita, il compratore gli chiede questa certificazione, ha diritto di farlo? Sì, a nostro avviso, siccome c'è un obbligo, l'obbligo di dotarsi dell'attestato, secondo le scadenze e le condizioni previste dalla legge, esiste ovviamente a carico del venditore. Non consegue dalla mancata allegazione la nullità dell'atto, la sanzione della nullità dell'atto. Quindi ci può tradurre, avvocato, in termini pratici che il suocero di Mauro possa comprendere? Sì, sì, beh, certamente diciamo, l'obbligo di allegare la certificazione non esiste più né dal punto di vista della normativa statale né dal punto di vista della normativa regionale. Non esiste questa l'obbligo di allegare la certificazione a Rogito, dice lei, però certo. Deve però il venditore ha l'obbligo di produrla al compratore. Neanche l'obbligo neanche di produrla, cioè, l'obbligo di dotarsene, obbligo rimane, a nostro avviso rimane solo l'obbligo di dotarsene. Lo so, ma nel momento in cui uno se ne dota può tranquillamente vendere la casa in serenità, però mi pare di capire che in questo caso potrebbe anche andare a monte un atto di compravendita, se non ci si mette d'accordo. È una problematica che riguarda i rapporti interni tra il compratore e il venditore, però non ci sono delle conseguenze sul piano della validità dell'atto che si va a stipulare. Ecco, questo è il punto, perfetto. Allora, documenti certificati quando si acquista casa, insomma, l'acquisto della casa è qualcosa di estremamente impegnativo, non solo dal punto di vista finanziario, quindi cerchiamo di capire tutto quello che dobbiamo fare per andare con serenità a Rogito, perché poi da lì non è che si possa tornare indietro, almeno non facilmente. Allora, notaio Clarizio, ritorno a lei, 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori. Adesso sentirò Gianni, Franco e Matteo, rispettivamente da Roma, Trento e Verona. Prima però facciamo poniamo i termini di cui parliamo questa mattina in maniera generale. Ho trovato la casa dei miei sogni, mi sono messa d'accordo con la parte che me la vende e ho pattuito il prezzo, la banca mi ha garantito che mi presterà il denaro necessario per portare a termine l'operazione, vengo da lei perché vorrei che lei sia il notaio che mi farà diventare proprietaria. Quali sono gli adempimenti che dobbiamo espletare insieme? Allora, io approfitto subito, non me la faccio scappare questa domanda, le faccio subito l'elenco di tutte le cose che chiedo al venditore e quelle cose che chiederei all'acquirente. Facciamo all'acquirente, perché di solito è l'acquirente che viene dal notaio, a volte può venire anche il venditore. Allora, gli dico subito che cosa deve farsi dare dal venditore, perché il venditore ha un obbligo di mettere a disposizione i titoli, cioè tutti gli atti che ha, quindi gli dovrà dare sicuramente l'atto col quale ha acquistato, oppure la denuncia di successione, oppure il testamento attraverso il quale è diventato proprietario, gli dovrà dare la planimetria catastale, gli dovrà dare tutta la documentazione urbanistica di cui è in possesso, il famoso certificato di agibilità, oltre alle concessioni e alle licenze o le denunce di inizio attività se sono state delle modifiche. Il venditore ci dovrà far sapere, non lo darà direttamente all'acquirente, ma dovrà darlo al notaio, se è di stato civile libero oppure se è coniugato, e se è coniugato qual è il suo regime patrimoniale, perché questo ha delle implicazioni enormi e lo stesso poi saprà importanza per l'acquirente. Mi dovrà dire se l'immobile è locato a terzi e quindi in questo caso mi consegnerà il contratto di locazione, mi dovrà spiegare come stanno gli impianti e qual è la situazione dal punto di vista energetico. Io vorrei soltanto, senza tornarci, dire che questa certificazione energetica serve all'acquirente e che sarà obbligatoria comunque dal 1 luglio del 2009. Infatti poi tra un attimo ci volevo tornare su questa scadenza. Perché dal 1 luglio 2009 tutti gli edifici, salvo alcuni marginali, quindi non stiamo a fare l'elenco adesso, dovranno essere dotati di certificazione energetica, quindi l'acquirente ha diritto di pretenderla, nel senso che io ad esempio, se compro un determinato bene che ha determinati requisiti, se compro una casa che abbia la piscina, vorrò sapere se la piscina funziona o non funziona, e quindi allo stesso modo io ho diritto di avere questo certificato che mi dirà qual è il consumo energetico di questo immobile, io saprò di quanta energia è necessario per poterlo riscaldare, per poter avere l'acqua calda. È una dimensione alla quale non siamo abituati, però piano piano diventerà un modo abituale per giudicare gli immobili che andiamo ad acquistare. Che il prescinde, come ribadiamo, perché l'aspetto sul quale ci eravamo soffermati con l'avvocato Nasini, dalla positiva conclusione dell'atto di compravendita, però che l'edificio debba essere dotato di questa certificazione è una cosa diversa. Ecco. Perfetto, allora siccome l'immobile lo deve avere, io suppongo che l'acquirente Certo. Lo chiederà al venditore. Ecco. Poi che non deve essere allegata all'atto, questa è un'altra cosa, ma il notaio sicuramente chiederà al venditore, ci sono tante cose che non devono essere allegate agli atti, non è che io allego agli atti la dichiarazione dell'amministratore di condominio, oppure noi abbiamo fatto anche una guida insieme agli amministratori di condominio, vivere in condominio, e io non è che pretendo che l'amministratore mi dia una certificazione da cui risulta che il venditore è in regola con tutte le spese condominiali, però per esempio quello è un altro documento che se io ce l'ho è chiaramente opportuno averlo. Mm-hmm. E per andare avanti passiamo agli impianti. Anche no, tra l'altro volevo anche, mi scusi notaio, fare una piccola precisazione. Noi stiamo, come dire, dando per scontato che si sia attivato un rapporto diretto nella compravendita tra proprietario e futuro acquirente. Molto spesso intermedia la trattativa, come sappiamo, l'agente immobiliare. Molto spesso tutta questa documentazione ce l'ha in mano l'agente immobiliare. Quindi... Sì, oppure no, qui dipende dalla situazione particolare, diciamo che lei magari mi ha fatto il presupposto che è venuta quando ho già fatto tutto e forse magari quando già è stata in agenzia immobiliare, poteva venire anche prima ad esempio, nel senso che qualcuno può venire anche soltanto prima ancora di decidere se prendere un mutuo, magari volendo bypassare la mediazione, però volendo, o anche prima assolutamente di andare presso l'agenzia, perché ognuno assolutamente ha il suo campo operativo, però ci sono certe consulenze ad esempio che riguardano tutta la situazione familiare, che riguardano se si tratta di stranieri, che riguardano se intestarlo al proprio coniuge, se intestarlo insieme, se intestarlo a un figlio, se acquistare dando del denaro al proprio figlio. La problematica è talmente completa e complessa e talmente varia che una consulenza, tra l'altro il notaio dà una consulenza gratuita, nel senso che tutto è ricompreso poi dopo nel costo dell'atto, quindi è un peccato. Io prima quando diceva che ci... Io sono contenta che mi vengano a torturare perché è un bel modo per dare tutte le informazioni. E, si tratta poi del ritorno indietro un attimo, perché ad esempio se il venditore attuale a suo tempo aveva fatto un mutuo, bisognerà anche vedere se il mutuo viene estinto, se abbiamo un'assenza a cancellazione. Se la casa è gravata all'ipoteca o meno. Ecco. E poi ci sono tutta la discussione per esempio che riguarda le eventuali prelazioni, se ci sono state delle prelazioni particolari perché abbiamo un trasferimento che proviene da un'eredità, oppure se abbiamo una prelazione, o abbiamo addirittura prevista in un atto di provenienza, se abbiamo dei vincoli culturali. E insomma. Quindi, È un bel controllo preventivo da fare, per il quale quindi ci raccomandiamo con tutti i futuri proprietari di casa di eseguire appunto secondo tutte le regole. Matteo dalla provincia di Verona, buongiorno. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ho una domanda, io ho una casa, una porzione di casa da vendere nella provincia di Verona, sì, e non ha attualmente, non ha caldaie e ha un impianto elettrico fatiscente. Sì. Vale a dire che ha dei fili scoperti, insomma non è a norma. Uh-huh. Volevo sapere che obblighi ho, posso venderla così com'è o devo addossarmi una spesa per sistemare gli impianti? Matteo, la ringrazio. Allora, avvocato Nasini, che cosa suggerirebbe a Matteo? Io credo che possa venderla, a patto che ovviamente il prezzo sia intanto congruo rispetto alle condizioni fatiscenti che diceva Matteo. Sì, è chiaro che questo inciderà sul prezzo, sulla valutazione, quello che conta naturalmente, che è importante è che nell'atto nell'atto di vendita si sia da, e magari anche prima ancora nel preliminare, si dia atto espressamente delle condizioni nelle quali si versa l'immobile, perché il compratore dovrà dichiarare di acquistare l'immobile nello stato di fatto in cui si trova, e quindi eventualmente sarebbe opportuno specificare quali sono queste condizioni e che quindi il corrispettivo è stabilito proprio in funzione di anche di queste condizioni. Certo. Quello che, se mi è permesso consentito, prego, quello che volevo dire, che qua naturalmente io prima mi sono riferito diciamo all'aspetto, perché mi sembrava che questa fosse la domanda del sull'obbligo come allegare a Rogito esatto, la certificazione energetica, sì, sulla validità o meno dell'atto. È logico che quando, al di là di questo aspetto che è quello decisivo, determinante, fondamentale, no? Quello di non andare a stipulare un atto invalido, è logico che tutta la documentazione possibile e immaginabile che riguarda l'immobile, il compratore ovviamente ha interesse e anche diritto a richiedere. Io facevo, per esempio, si faceva riferimento a un documento estremamente importante che spesso viene dimenticato, che è il regolamento di condominio, perché il regolamento di condominio, quando ha natura contrattuale, quando cioè è stato predisposto dall'originario costruttore allegato agli atti di provenienza, può contenere anche delle norme, delle disposizioni, delle clausole limitative della proprietà compravenduta, per esempio del diritto di destinare sì. ad un uso piuttosto che ad un altro, o addirittura per esempio sulla possibilità di utilizzazione di determinate parti comuni. Quindi il regolamento di condominio contrattuale è un documento che va richiesto dal compratore, così come il compratore deve assolutamente richiedere, informarsi su quelle che sono qual è la situazione contabile esatto. dell'immobile compravenduto. E infatti guardi, ci sono molti ascoltatori che stanno scrivendo, per esempio ce n'è uno che mi aveva incuriosito, che non riusciamo ad approfondire, che ci ha scritto che tra il rogito, che tra sì il preliminare d'acquisto e il rogito sono stati fatti dei lavori straordinari in questi immobili, adesso non si capisce bene chi si debba incaricare di queste spese. Le cose da dire sarebbero tante, avete anche un po' girato il coltello nella piaga, perché se io risalgo al momento in cui ho fatto l'acquisto, non voglio neanche pensarci a tutte le cose che ho tralasciato, per cui stamattina devo anche fare un mea culpa in diretta, ma insomma è bene anche che succeda questo, in modo tale che qualora dovessi ricomprare casa sicuramente tante trascuratezze non ci saranno. Io ringrazio il notaio Giulia Clarizio per essere ritornata con noi, lo so che abbiamo lasciato indietro tante cose, ma avremo modo di ospitarla di nuovo, magari contestualmente alla presentazione della vostra guida al preliminare d'acquisto. Notaio, a presto. Voi buona trasmissione. Grazie ancora. E grazie anche all'avvocato Nasini di Confedilizia, grazie per essere stato con noi, a presto anche a lei. Naturalmente grazie a Valeria Coffaro e a Gaia Romani per l'aiuto in redazione, oggi Peter Bescapè, il suo mal di denti, in diretta in assistenza tecnica. Salva Danaio e Soldi Dintorni con me tornano domani, vi auguro una buona giornata, a presto.